Adesso leggiamo il capitolo 9 nel Vangelo di Matteo. E Gesù, entrato in barca, passò all'altra riva e venne nella sua città. Ed ecco, gli portarono un paralitico stesso sopra un letto. E Gesù, veduta la fede loro, disse al paralitico: «Figliuolo, sta di buon animo, i tuoi peccati ti sono rimessi». Ed ecco, alcuni degli scribi dissero dentro di sé: «Costui bestemmia». E Gesù, conosciuti i loro pensieri, disse: «Perché pensate voi cose malvagie nei vostri cuori? Poiché che cosa è più facile dire: i tuoi peccati ti sono rimessi, o dire: levati e cammina? Ora, affinché sappiate che il figliuolo dell'uomo ha sulla terra autorità di rimettere i peccati, levati», disse al paralitico, «prendi il tuo letto e vattene a casa». Ed egli, levatosi, se ne andò a casa sua. E le turbe, veduto ciò, furono prese da timore e glorificarono il Dio che aveva data cotale autorità agli uomini. Poi Gesù, partitosi di là, passando, vide un uomo chiamato Matteo che sedeva al banco della gabella e gli disse: «Seguimi». Ed egli, levatosi, lo seguì. E avvenne che, essendo Gesù a tavola in casa di Matteo, ecco che molti pubblicani e peccatori vennero e si misero a tavola con Gesù e coi suoi discepoli. E i farisei, veduto ciò, dicevano ai suoi discepoli: «Perché il vostro maestro mangia coi pubblicani e coi peccatori?» Ma Gesù, avendoli uditi, disse: «Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Ora andate ed imparate che cosa significhi: voglio misericordia e non sacrificio, poiché io non sono venuto a chiamare dei giusti, ma dei peccatori». Allora gli s'accostarono i discepoli di Giovanni e gli dissero: «Perché noi e i farisei digiuniamo, e i tuoi discepoli non digiunano?» E Gesù disse loro: «Gli amici dello sposo, possano essi far cordoglio finché lo sposo è con loro? Ma verranno i giorni che lo sposo sarà loro tolto, ed allora digiuneranno. Or niuno mette un pezzo di stoffa nuova sopra un vestito vecchio, perché quella toppa porta via qualcosa dal vestito, e lo strappo si fa peggiore. Neppure si mette del vin nuovo in otri vecchi, altrimenti gli otri si rompono, e il vino si spande, e gli otri si perdono, ma si mette il vin nuovo in otri nuovi, e l'un e gli altri si conserveranno». Mentre egli diceva loro quelle cose, ecco, uno dei capi della sinagoga, accostatisi, si inchinò dinanzi a lui e gli disse: «La mia figliuola è pur ora trapassata, ma vieni, metti la tua mano su di lei ed ella vivrà». E Gesù, alzatosi, lo seguiva coi suoi discepoli, ed ecco una donna malata d'un flusso di sangue da 12 anni, accostatasi per di dietro, gli toccò il lembro della veste, poiché diceva fra sé: «Sol che io tocchi la sua veste, sarò guarita». E Gesù, voltatosi e vedutola, disse: «Sta di buon animo, figliuola, la tua fede t'ha guarita». E da quell'ora la donna fu guarita. E quando Gesù fu giunto alla casa del capo della sinagoga, ed ebbe veduto i suonatori di flauto e la moltitudine che faceva grande strepito, disse loro: «Ritiratevi, perché la fanciulla non è morta, ma dorme». E si ridevano di lui. Ma quando la moltitudine fu messa fuori, egli entrò e prese la fanciulla per la mano, ed ella si alzò, e se ne divulgò la fama per tutto quel paese. Come Gesù partiva di là, due ciechi lo seguirono gridando e dicendo: «Abbi pietà di noi, o figliuol di Davide!» E quando egli fu entrato nella casa, quei ciechi si accostarono a lui, e Gesù disse loro: «Credete voi che io possa far questo?» Ed essi gli risposero: «Sì, o Signore!» Allora toccò loro gli occhi, dicendo: «Siavi fatto secondo la vostra fede!» E gli occhi loro furono aperti, E Gesù fece loro un severo divieto dicendo, guardate che niuno lo sappia. Ma quelli usciti fuori sparsero la fama di lui per tutto il paese. Or come quei ciechi uscivano, ecco che gli fu presentato un uomo muto indemoniato. E cacciato che fu il demonio, il muto parlò. E le turbe si meravigliavano dicendo, mai non si è vista cosa tale in Israele. Ma i farisei dicevano, egli caccia i demoni per l'aiuto dei principi e dei demoni. E Gesù andava intorno per tutte le città e per i villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe, predicando l'Evangelo del Regno, e sanando ogni malattia ed ogni infermità. E vedendo le turbe ne ebbe compassione, perché erano stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore. Allora egli disse ai suoi discepoli, «Ben è la messe grande, ma pochi sono gli operai. Pregate dunque il Signore della messe, che spinga degli operai nella sua messe».